Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con la rubrica Dal mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Oggi il nostro sguardo si allarga all'Unione Europea ed è bene che si allarghi, come l'Europa entra da noi, anche noi ci allarghiamo. Parliamo oggi del progetto Regio, ce n'è solo uno approvato per il Veneto ed è coordinato dalla provincia di Treviso, ci partecipano vari enti e varie scuole, tra cui il liceo Da Vinci, rappresentato in questa sede dalla professoressa Patrizia Casoni, docente di inglese, benvenuta. Grazie. Grazie professoressa. E allora, Regio è latino, giusto? Mi fa rimembrare degli studi antichi, è una parola latina. Progetto Regio comunque è un progetto europeo e con questa denominazione in Italia e fa parte dei progetti Comenius. Che è un'altra parola latina. Comenius. E questi progetti Comenius sono progetti che ormai esistono da tantissimo tempo. Nel passato erano all'interno del contenitore Socrates, adesso sono nel contenitore Lifelong Learning Program. Traduciamo, apprendimento, visto che insegna inglese, sì. Apprendimento nell'arco di tutta la vita. È un progetto molto ambizioso che mette insieme per la prima volta all'interno di questo contenitore sia il mondo della scuola che gli enti pubblici e le associazioni. E allora diciamo appunto chi partecipa. Il liceo Da Vinci l'abbiamo già citato. Il liceo Da Vinci partecipa, il promotore di questo progetto come scuola è stato l'Istituto Comprensivo di Paese e insieme all'Istituto Comprensivo Toti dal Monte di Mogliano Veneto. Queste sono le tre scuole per quanto riguarda l'Italia, perché devo aggiungere che questo progetto vede come protagonisti queste associazioni, scuole ed ente di Treviso, e poi l'altra regione che è il nostro partner è la regione del Calvados in Francia. E quindi nel partenariato italiano noi abbiamo il, come dicevo prima, l'Istituto Comprensivo di Paese, scuola media ed elementare, l'Istituto Comprensivo Toti dal Monte, istituto media elementare e il liceo scientifico, scuola secondaria superiore, mentre le nostre partner francesi sono tutti dei college e quindi sono tutte scuole medie. Per quanto riguarda il coordinatore, la provincia di Treviso, e il coordinatore per la Francia è il suo parallelo della regione del Calvados, che è il Conseil General del Calvados. E per quanto riguarda invece le associazioni, abbiamo l'associazione Vivere la Cittadinanza e l'associazione Volontariato di Treviso. Insomma, è un progetto ampio, abbiamo detto chi sono i partner, la promozione appunto è dell'Istituto Comprensivo Casteller. Nell'ambito di questo grande contenitore europeo, citavo un altro, mi è venuto in mente un altro nome latino, che sono i progetti Erasmus per l'università. Certo, certo, lo stesso contenitore contiene sì, sia i progetti Erasmus, certo, anche Leonardo, Grundwing e altri. Certamente. Nomi che già conosciamo, insomma, sì. Sono già nel nostro orecchio, nel nostro patrimonio. La cosa buona da dire è che questo progetto Regio è un progetto molto ambizioso, come dicevo prima, ed è l'unico che c'è nella regione Veneto, quindi siamo molto contenti di questa cosa, di averlo ottenuto. Un progetto che ha la durata di 2 anni, se non sbaglio. Ha la durata di 2 anni, è iniziato nell'autunno del 2011, anno scolastico 2011-2012, e quest'anno scolastico, quindi finirà nell'autunno 2013, vede la sua seconda parte e conclusione. Abbiamo detto che cos'è, quali sono i suoi scopi e poi entreremo anche nel dettaglio, nel tema. Sì, esatto. Allora, il titolo del progetto è un acronimo ed è Eyes for See, occhi per vedere, ed è un acronimo in inglese, è un acronimo inglese, sulla cittadinanza attiva europea, rivolta come idea ai giovani, quindi è un tema che è elaborato ed è già stato utilizzato nel passato da tutti, sia scuole che associazioni che enti pubblici. Il tema della cittadinanza attiva, di cui ogni tanto si sente parlare, se ne sente parlare sempre più spesso, e che credo sia uno dei grandi obiettivi dell'Europa, no? Certo, è uno dei macro obiettivi dell'Europa, proprio perché diciamo, se definiamo che cos'è, che cos'è l'idea di cittadinanza nel senso tradizionale. La cittadinanza nel senso tradizionale è il cittadino che chiede allo Stato, all'ente, all'Europa o comunque delega. La cittadinanza attiva invece è un'idea diversa, è il cittadino protagonista, attivo e che si fa carico anche del territorio, dell'ambiente, dell'energia, dei beni e agisce in maniera attiva. Quando vede, diciamo in parole semplici, qualcosa che non va, non funziona, si attiva. E anche con senso forte di responsabilità, perché territorio, energia, ambiente e anche quello che sono i rapporti sociali comunque sono un bene comune. Il senso civico, no? È il senso civico, potremmo dire, assolutamente, in altra forma. Sì. Abbiamo detto che si chiama Reggio, lei ha detto si chiama Reggio per l'Italia, vuol dire che negli altri paesi ha un altro nome? No, è sempre un tipo di progetto che è all'interno del Comenius, e che comunque qui è progetto Reggio, ma è comunque rivolto a tutte le nazioni che appartengono alla Comunità Europea. Tanto è vero che abbiamo il Calvados che ha scritto e ha compilato un formulario esattamente come noi, rivolgendosi al suo ente, diciamo, che si occupa dei progetti europei. Tra poco, quindi è finanziato dalla Comunità Europea. È finanziato dalla Comunità Europea. Sì. E tra poco, allora, dopo questa prima pausa, entriamo nei dettagli, nel tema e nel contenuto della cittadinanza attiva. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. avvisare. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Eccoci di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola. Stiamo parlando del progetto Regio, un progetto di durata biennale dell'Unione Europea, unico presente in Veneto a Treviso, coordinato dalla provincia con dentro una serie di partner, tre scuole e un paio di associazioni che abbiamo citato prima e citeremo in chiusura. Con Patrizia Casoni, che è docente al liceo Da Vinci per questa scuola, coordinatrice del progetto, allora riprendiamo dalla cittadinanza attiva, cioè è l'essere consapevoli, avere un senso civico nello stare attenti, insomma, nell'essere partecipi e non passivi, perché e non passivi. Attivo è il contrario di passivo. Certo, certo, cittadino attivo proprio nell'ettica del senso di responsabilità, di solidarietà e del muoversi per questo bene comune, esattamente come dicevamo prima. Questa è un'idea. È un'idea che deve diventare forte all'interno di tutta la comunità europea e, come dicevo prima, questa è un macro obiettivo della comunità europea. Non è qualcosa che deve essere creato dal nulla e di nuovo, perché moltissime scuole ci sono già tantissimi progetti che vanno nella direzione della cittadinanza attiva. La cosa importante è averne la consapevolezza. Questo è un progetto che si rivolge quindi non tanto agli studenti quanto ai decisori all'interno delle scuole, responsabili delle scuole, degli enti, delle associazioni, perché sono coloro che poi agiscono sul territorio e appunto prendono le decisioni. Noi diciamo che come obiettivi che ci siamo dati in maniera pratica e calandolo sul mondo della scuola, il mondo anche reale, abbiamo cominciato subito come prima azione nell'autunno del 2011 con un questionario. Questo questionario è stato un sondaggio in tutti e due i territori, Italia e Francia, nelle nostre aree, Calvados e Treviso, provincia di Treviso, per vedere che cosa esisteva, quali progetti già esistevano e com'era la cittadinanza attiva promossa all'interno delle scuole. E questo questionario è stato dato sia agli studenti ma anche ai vari membri delle associazioni e tutti coloro che frequentano queste associazioni. Cosa ne era emerso? Ne è emerso che il concetto, che l'idea di cittadinanza attiva è un'idea che è sentita e anche promossa. La consapevolezza di che cos'è, di come agire come cittadino attivo, meno. Quindi è necessario nelle politiche educative promosse, sia le politiche formali che informali, quindi sia dalle scuole che dal mondo degli enti e delle associazioni, agire sempre anche nel futuro verso questa direzione. E per questo appunto sono i decisori, come si chiamano, sì, cioè responsabili ad essere investiti più direttamente, esatto, della realizzazione, esatto, di questo progetto. Vediamo di scendere più nel concreto. A voi, per quanto riguarda la vostra scuola, il liceo Da Vinci, come avete iniziato a declinarlo? Esatto, intanto proprio cominciando a guardare quali erano i progetti all'interno della nostra scuola che già si muovevano nella direzione di promuovere questa educazione di cittadinanza attiva, e come progetti nella nostra scuola ne abbiamo molti e che promuoveremo anche come buone pratiche. Il progetto PES, Parlamento Europeo degli Studenti, che vede appunto gli studenti che agiscono e che pensano a temi comuni. Il Giorno della Memoria, il progetto Lezioni in Villa, il progetto Rete di Storia e un progetto di bioetica in collaborazione con l'ospedale regionale Ca' Foncello di Treviso, che fa riflettere i nostri ragazzi su temi che riguardano la bioetica. progetti che magari esistevano prima della partecipazione a questo bando, però hanno assunto una luce, sotto una luce nuova. Assolutamente, creando appunto questa etica, questa consapevolezza dell'etica, della responsabilità e della solidarietà. E infatti durante i nostri incontri transnazionali, cioè gli incontri che abbiamo fatto in Francia quando la delegazione della provincia di Treviso italiana è andata in Francia, e anche il secondo incontro quando loro sono venuti in Italia, noi siamo andati a vedere le loro buone pratiche, i progetti che loro già facevano esistenti nella promozione della cittadinanza attiva, e loro sono venuti a vedere i nostri in una giornata a Treviso nel liceo scientifico Leonardo da Vinci, dove i ragazzi hanno presentato, sono stati i ragazzi che hanno presentato questi progetti. Posso chiedere un po' di consolazione? I francesi hanno imparato qualcosa da noi o... Sì, sono rimasti perché di solito molto... noi ci buttiamo sempre giù. No, sono rimasti molto colpiti. E per loro è stata una giornata importante. Ora tutte queste buone pratiche, comunque non sono soltanto stati nel nostro liceo scientifico, sono andati anche nelle altre scuole, l'Istituto Comprensivo Casteller e l'Istituto Comprensivo Toti del Monte, ed anche presso le associazioni, per vedere le loro buone pratiche. Quindi c'è stato uno scambio effettivo di buone pratiche. Ora noi stiamo lavorando per la pubblicazione di un manuale dove ogni partner metterà tutte le buone pratiche che fa, che realizza all'interno del proprio istituto, del proprio ente, della propria associazione. Questo serve anche per creare consapevolezza all'interno dell'ente, della scuola, dell'associazione in generale, che è una forma anche di formazione, di accrescere quindi la formazione di chi ci lavora. E di questo appunto e anche dei progetti per il prossimo periodo parliamo dopo l'ultima pausa. Dal mondo della scuola. Oh, Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, dedicata al progetto Regio, l'unico attivo in Veneto e approvato e finanziato dall'Unione Europea è a Treviso, coinvolge il Liceo De Vinci, gli istituti comprensivi Castellare di Paese, Totti dal Monte di Mogliano, le associazioni Vive la Cittadinanza e Volontariato di Treviso, coordinato dalla provincia di Treviso, la professoressa Patrizia Casoni, che per il Liceo De Vinci coordina appunto questo progetto. Mi ha ricordato anche l'ente coordinatore generale. Avete appunto nel prossimo obiettivo, quindi quest'ultimo step di percorso di questo tratto biennale, diceva prima, la realizzazione di questo manuale di buone pratiche. Allora, le buone pratiche non sono le buone azioni dei Boy Scout, o meglio, non sono solo quelle, ma è molto di più, no? Proviamo a definire le best practices, come si dice in inglese. Le buone pratiche sono riuscire ad ottenere dei risultati che sono soddisfacenti rispetto all'obiettivo che ci si è dati, utilizzando mezzi, strutture, risorse in maniera efficace. Uh-huh. Questo e può deficiente. Valere in qualsiasi campo della vita. E questo può, esatto. Quindi il fatto di realizzare un manuale di buone pratiche può essere un manuale utile, soprattutto per l'obiettivo ultimo che si dà a questo progetto, proprio l'obiettivo di trasferibilità, cioè la trasferibilità delle buone pratiche. Il fatto che attraverso questo manuale possa altri enti, scuole e associazioni possono avere delle idee, degli spunti e anche delle risorse per, sempre di idee, per poter come responsabili di progetto, quindi decisori, pensare e creare progetti per i loro rispettivi enti, associazioni e scuole. Questo perché poi le persone non sono solo studenti o solo membri di famiglie o solo partecipanti in associazioni, ma sono in generale cittadini, e quindi questi ambiti si devono un po' mescolare, sì, e coordinare, sì, no? E questa è la forza del progetto Regio. Infatti, proprio il fatto di vedere insieme associazioni, cittadini e scuole, proprio perché tutti e tre i settori sono impegnati in quello che si chiama l'educazione, nel nostro caso il caso della scuola formale, e negli altri casi, nel caso della provincia, le loro politiche educative, e nelle associazioni è l'educazione informale. E quindi lavorare in sinergia, e non solo lavorare in sinergia sullo stesso territorio, ma anche confrontandosi con realtà di un territorio diverso, in questo caso il Calvados in Francia, dà modo di poter dare una direzione futura a questi, ai prossimi progetti. Con riferimento sempre all'Europa, mi diceva nella pausa che nei vostri incontri appunto transnazionali avete sempre avuto anche un rappresentante politico, un parlamentare europeo. Ci siamo incontrati, certo, abbiamo incontrato in Francia un parlamentare europeo francese, e a lui abbiamo presentato i risultati del questionario e abbiamo chiesto anche quali sono le politiche europee per quanto riguarda la cittadinanza attiva. E lui ci ha risposto che attraverso progetti dello stesso tipo esisteranno progetti dello stesso tipo, proprio per sensibilizzare e creare questa mentalità europea nuova di cittadini attivi, così fondamentale per i nostri giovani, per poterli fare coesistere, vivere e creare un'Europa comune. E qui a Treviso, anche a Treviso, abbiamo incontrato un parlamentare europeo italiano. E qua anche lui abbiamo fatto le stesse domande, le domande sono state anzi costruite proprio dai ragazzi delle scuole che le hanno chieste direttamente al parlamentare europeo, quindi il parlamentare ha risposto ai nostri studenti, i nostri cittadini attivi. Eh certo, perché uno è cittadino fin dalla nascita e quindi con diversi gradi di responsabilità e anche di coscienza, perché questo progetto vuole soprattutto creare una coscienza. Mancano pochi mesi, ormai la conclusione del progetto, i vostri prossimi appuntamenti? Il nostro prossimo appuntamento sarà in Francia in aprile, proprio per Calvados, in particolare a Caen. proprio per concludere il progetto e anche per ideare, diciamo, quello che si chiama il follow up, cioè quello che segue, e quindi far partire anche altri progetti. Altri progetti, altri contatti ci sono già stati, sono in corso e continueranno ad esserci anche dopo il progetto. Quindi il progetto Regio è stato anche un'occasione per far incontrare delle persone, per creare nuovi progetti sul territorio, per condividere, insomma, anche sì, esperienze. Ed è interessante, voi siete in questo tra Treviso e Calvados, siete l'unica scuola superiore. Sì, noi perché, lì, sì, come esatto, dicevamo prima, no? Quindi anche questo vi ha un po' caratterizzato e ha caratterizzato il progetto. Sì, diciamo che i partner francesi sono stati molto, diciamo così, contenti di avere anche un partner che, come noi, della scuola superiore, soprattutto per quello che riguarda l'orientamento poi e quello che è anche la comparazione tra i sistemi scolastici, diciamo, europei, quindi Francia e Italia. Ora noi entriamo nella nostra terza fase, che le prime due fasi sono state: la prima, un piede nel proprio territorio attraverso il questionario; la seconda fase è stata un piede nella società, nella scuola e nella società, e ora come ultima fase, terza fase, sono quindi un piede nella scuola, un piede nella società, due piedi in Europa. Quindi è la nostra terza fase, va nella direzione di progetti futuri che riguarderanno l'Europa, la mobilità degli studenti, la mobilità degli insegnanti, quindi la creazione di nuovi progetti che possono mettere insieme studenti. Uno tra questi, a cui stiamo pensando, è quello di creare un Parlamento tra gli studenti di Treviso, del Calvados, e poiché il Calvados ha anche dei partenariati con la Germania e la Polonia, quindi creare un piccolo parlamento fatto dagli studenti di queste regioni, di queste quattro nazioni, certo. Bene, una bella idea che magari torneremo a raccontare quando sarà realizzata. Grazie allora tramite la professoressa Casoni a tutti quelli che hanno realizzato e stanno completando questo progetto. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Grazie a Didaici Regia, a voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallino un saluto, un appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.